Da Parma, siamo una squadra popolare di Parma, nata nel 2010. Puoi dire un po' della storia della PASD antirazzisti? Sì, diciamo che vabbè, come dicevo, nasciamo nel 2010, come diciamo, sentiamo il bisogno di voler creare una squadra con dei valori diversi dal calcio che vediamo in TV, e questi valori appunto sono l'antisessismo, l'antirazzismo, l'antifascismo e la gestione popolare di una società sportiva. Quindi abbiamo iniziato a fare un azionariato popolare nel quartiere Oltretorrente, famoso per altri motivi. E quindi da lì poi abbiamo iniziato a giocare con tanti ragazzi di provenienza diversa, maggiormente dall'Africa o dal Medio Oriente. E è il settimo anno che facciamo il campionato amatoriale WISP. E quest'anno faremo una squadra giovanile per la prima volta, con soprattutto minori non accompagnati, minori stranieri non accompagnati, ma chi vuole poi può venire, ecco. Bene. Perché siete venuti a partecipare ai mondiali antirazzisti? Questo è il nostro quinto anno, forse, che partecipiamo ai mondiali, perché è un appuntamento ormai che è diventato fisso per tutto l'anno. Poi perché qua si respira un'aria bella, si conosce tanta gente, tanti ragazzi, tante ragazze, si sta insieme, si gioca. E quindi penso che cosa meglio di questo, no? Solo un po' il caldo, ecco. Qual è il vostro messaggio che potete lasciare agli altri che vengono per partecipare e quelli che vengono, sì, tutte le squadre che vengono per partecipare? Ma sicuramente che lo sport in generale è una cosa trasversale, che in un campo da calcio si abbattono tutte le frontiere, tutte le differenze, tutto. Quindi ben venga il fare sport sempre, e questo è il posto adatto per dimostrare tutto ciò. Per te, pensi che i mondiali antirazzisti possono essere un'arma per lottare per il razzismo nel mondo, soprattutto in Italia? Assolutamente sì, è un esempio che va raccontato, va vissuto, perché qua si vede, insomma, come dovrebbe essere in realtà la vita di tutti i giorni, nelle nostre città, nelle nostre vite private.